vorrei dire che lui voleva cadere. Ha provato a buttarsi per terra dando la colpa a Valentina. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Palla alta all'Inter, ecco Brozovic che prova a darla in profondità, sbaglia Ferrari, Jaic, Mauro Icardi, 1-0, primo errore grave del Bologna, subito la punisce l'Inter. Tener, respinto il pallone, resta ancora lì, destro, centra Andanovic, incredibile palla gol di è perfetta perché abbiamo vinto e dovevamo fare questo e poi fare gol, io lo sapevo che qualche partita il gol arrivava perché sono un attaccante e devo fare questo. Poi l'importante è che la partita, abbiamo portato i tre punti a casa e che la partita è andata bene per noi. Non si può continuare a ammonire, mi sembra che le espulsioni in generale siano troppe e le partite vanno giocate 11 contro 11. Ma è meglio il calcio inglese da questo punto di vista? Beh, lì non ammoniscono mai, quindi forse è meglio per il gioco. Sono le mie espulsioni, non lo so, dovete domandare all'arbitro, perché io non ho detto assolutamente niente. Niente. Io non ho detto niente, poi lo sentiamo, però ha detto qualche cosa. Giorgio De Luca, nostro autore, Pietro Lacorte oggi in regia e Pierluigi Pardo in viaggio verso Reggio Emilia. Come va? Come va? Bene, molto bene. E poi Giacomo Ciccio Valenti, buongiorno. Ciao Carlo, ciao Jack. Ciao Ciccio, com'è? Tutto com'è? Ha dormito da solo in testa alla classifica, come vuoi che vada, no? Hai visto, è in viaggio verso Reggio Emilia che mi fa ridere di Pier, perché secondo me è già in zona da due ore, è già al quarto spettacolo. Sto per partire in realtà, sto finendo, perché poi mi sto occupando del signor Peluccio, sto facendo, sai, bisogna aggiornare i file. Ecco. Arriva per la merenda, Pier? Sì. Beh, la merenda, fra l'altro, mi sembra la zona di merende, ecco, diciamo... l'Emilia Romagna, ecco. Senti Giacomo, sì, dimmi caro. Giacomo Ninna Nanna, dicevo, hai dormito in testa alla classifica sulla Ninna Nanna del solito 1-0, che però mancava da un mese. Bene, sì, così? Mancava da un mese, poi comunque sia, quest'anno si sta parlando di Inter in termini di primo e di secondo posto, insomma, per cui mi sembra che, cioè, è molto severa la critica nei confronti dell'Inter, nettamente più severa rispetto a molte altre squadre. Ora non voglio fare il piangina, però, ma questo da parte anche degli stessi interisti, noi siamo una razza abbastanza particolare e quindi, insomma, tutte le volte che c'è da confrontarsi con squadre avversarie bisogna assolutamente mettere in preventivo che c'è una critica molto severa. Io mi ricorderò sempre agli anni d'oro, insomma, nel 2008, 2009, 2010, se fosse entrato ai tempi che facevo controcampo, se fosse arrivato un extraterrestre, un marziano, avesse chiesto informazioni sull'Inter, insomma, sarebbe indubbiamente rimasto colpito dalla critica, cioè sarebbe stato convinto che l'Inter stava retrocedendo in quel momento, invece stava facendo un altro cammino. Occhio che tra un po' torna sul mercato José Mourinho, perché gli era uscito anche dalla Coppa di Lega, perdendo 6-5 con lo Sheffield dai rigori. È chiarissimo, vuole tornare, l'ha già detto. Sì, lo sta. Io però posso dirti, voglio condividere con Pier, critica severa ma giusta in questo momento, Pierluigi, con l'Inter. Non capivo se per Mourinho l'Inter. No, l'Inter non gioca, non è spettacolare. E c'è una differenza enorme fra l'efficacia e la spettacolarità di una squadra. Alla lunga io penso che una squadra che segna così poco possa avere dei problemi, però è anche vero che magari invece riesce a migliorare un po' davanti e diventa ancora più forte. Non lo so, io ho dei dubbi su questa squadra, ma nel senso che veramente sono veramente dialettico, cioè non so dirti se è una squadra che per ora è solida e che diventando bella diventerà anche fortissima, oppure se una serie di circostanze la tengono lì in testa alla classifica, ma in realtà si scoppierà. Non lo so, veramente non lo so. Se le due se cresce, se cresce, è una squadra bella. Mi fa paura. Cioè, l'ultima volta che sento dire una squadra veramente bella era la Cremonese di Mondonico. No, però c'è una via diversa. L'Inter di Mourinho era bellissima, dai. Ma non è vero. L'Inter vabbè, era più bella di quelli. Vabbè, dai. Stiamo parlando di estetica pura, critica della ragione pura. Cioè... Estetica nel calcio è esultare, girarti e vedere tuo figlio che esulta. L'estetica nel calcio si chiama gol. Questo per me l'Inter di Mourinho, Giacomo, era un meccanismo perfetto. Perché ci sono tanti modi di giocare a pallone. Perfetto, ricordiamoci l'ultimo anno di Mourinho che è stato brillantissimo e favoloso nel maggio del 2010, perché da febbraio a maggio non è stato questo meccanismo così perfetto, bisogna essere molto, molto sinceri, per cui questo nulla toglie ai grandi risultati. Io sulle squadre che giocano bene io mi fido veramente sempre tanto, soprattutto quando la critica arriva da squadra avversaria. Assolutamente non sto parlando di Pier come tifoso, però insomma andare a sfrucugliare sull'Inter è un giochino abbastanza semplice. Bisogna essere sinceri, spesso l'Inter fa di tutto perché possa essere oggetto di una situazione simile, ma non parliamo mai di Balotelli, che chissà come mai è arrivato, è sparito, non se ne parla più, non si parla mai di un allenatore come Allegri che ha nascosto Di Bala. Il Milan lo massacriamo dalla mattina alla sera. Sera e pure qualche volta anche di notte. Non è questo. Il punto è, io ho fatto l'Inter a Palermo e devo dire che ho visto delle cose buone. Sei andato a vedere l'Inter a Palermo, giusto? Sì, sono andato a vedere l'Inter. E delle cose buone, tipo per esempio il finale in 10 contro 11, che è stato molto positivo, che secondo me è un'altra cosa di ieri. Ho esaltarti in 10 contro 11. Insomma, l'Inter ha giocato molto bene, secondo me, gli ultimi 20 minuti. In generale vedo delle grandi porzioni di partita che vengono proprio lasciate come se non valessero. Anche ieri il primo tempo è stato imbarazzante, secondo me, però è pure vero che alla fine questa squadra l'aspetto positivo e la rivoluzione rispetto all'anno scorso è della forza fisica, cioè veramente questa è una squadra alla quale fai molto molto difficilmente gol, la tipica squadra manciniana, anche capelliana, insomma non parliamo di manciniana, capelliana, un macchinone molto molto potente, non molto agile se vogliamo, almeno in questo momento. Però funziona, miglior difesa del campionato, l'unica che non ha mai perso in trasferta. Ragazzi, vi fermo un attimo perché abbiamo il traffico, torniamo subito. 800 24 00 24, so che volete tornare voi ascoltatori e anch'io per la verità sul tema Rossi Marquez, che è quello che più ci appassiona in questa settimana, al di là dell'Inter e della giornata di campionato che ci aspetta questa sera. Lo faremo dopo la borsa con un ospite speciale. Intanto traffico. Penso che sabato arriverà sarà una partita difficile, perché noi vogliamo vincere tutte le partite. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. Tutti convocati. Dove stiamo parlando di Inter, Pierluigi Pardo collegato con noi, Giacomo Valenti pure, poi ripeto torneremo sull'argomento Valentino Rossi. Adesso vorrei fare un ardito parallelo motociclistico tra l'Inter e il motomondiale, però vi ricordate cosa ha detto ieri Carlo Pernat ai nostri microfoni? Vabbè, Valentino 3 anni fa mi ha detto: Carlo, ma ora ve lo spiego e ve lo posso svelare, no, cioè, ma tu non hai l'idea di che finto buono che è. Ma io dico: ma sei sicuro? Credimi ragazzi, l'ho sempre odiato e quello che pensava 3 anni fa era la verità. Pensa a te. Quindi no. Carlo, nel salutarti, allora diciamo che tutte quelle fotografie, i sorrisi, gli abbracci, volevose tanto bene tra Valentino e Marquez che abbiamo visto in questi 3 anni, 3 anni fa ti ha detto: ma hai visto che fa il suo ma guarda, ma secondo te questo qua c'è il poster in camera di Valentino? Ah no, ma non scherziamo. Ah no, ma magari da piccolo piccolo, sì, poi a poi ci aveva 3 anni. Le cose cambiano, dai, poi da mito diventi rivale. Dagli retta. Con il cavo il poster di Valentino in camera, Valentino interista, però l'Inter, Giacomo, più che Marquez, Lorenzo o Valentino Rossi, a me sembra un po' pedroso in questo momento. Che va dritto per la sua strada, questo non c'è tubato. No, solo una piccolissima cosa su Valentino Marquez. Sì, sì, te l'avevo chiesto. Intanto... sto parlando di due miti a confronto, vale dire Valentino Rossi e Diego Armando Maradona. La bellezza è che parlano sempre dei loro eredi quando in realtà non ci sono veramente dei fuoriclasse. Nel momento in cui arriva il vero fuoriclasse, vedi Messi ai tempi, o il Marquez di qualche prima della boiata clamorosa che ha fatto l'altro giorno, insomma, perché comunque andare col casco sul ginocchio di un altro non è il massimo, allora a quel punto ovviamente cambiano opinione, no? E quindi che è secondo me la grandezza del mito, cioè il mito comunque è mito anche perché se lo difende da solo, cioè io non avrei una grossa stima di Maradona nel momento in cui dicesse che in effetti è vero, nella storia Messi mi potrà superare perfettamente. Sì, sì. Maradona ha detto che il suo erede era Saviola, erano D'Alessandro, sta gente che poi non so, magari finiva a fare la riserva nel Cagliari, insomma, cioè ma non mai ne ha battezzati una mezza dozzina almeno. Ne ha battezzati una mezza dozzina quando era dietro, insomma. Secondo me il mito non ti trova il suo erede, ma col piffero che se lo trova. Esatto. Anche lo combatte, ma come è giusto che sia. Anche perché poi l'erede vero fa quello che ha fatto Marquez, quella battaglia all'ultimo sangue. Insomma, questa poi ci farà discutere. Oggi la Gazzetta secondo me si è superata quando ha messo i pro, cioè chi corre a favore di Valentino, chi corre a favore di Marquez e quali sono i neutrali, quello secondo me è una roba strepitosa, insomma. Adesso dramaturgicamente poi, adesso poi è il miglior sceneggiatore, sarebbe stato capace di portare una storia. Grazie Giacomo. Ciao Giacomo. Ciao. Vi abbraccio, ciao. Anche se l'Inter secondo me assomiglia più a Rossi in realtà, mi riferisco a questo mondiale qui, perché insomma Rossi è stato probabilmente meno veloce di altri, però ha avuto grande regolarità, grande esperienza, è andato sul podio più di tutti, quindi in questo modo è davanti a tutti in classifica. È un po' quello che sta facendo l'Inter, che appunto non è bellissima, non fa delle prestazioni straordinarie, non ha delle punte di velocità, di rendimento clamorose, però attraverso l'esperienza, il mestiere riesce a star là. E però la differenza è che per Rossi speriamo ancora sia possibile la porta del mondiale, l'obiettivo del mondiale. Per l'Inter, insomma, io l'Inter non la vedo davanti a tutti nella corsa. Neanche io la vedo davanti a tutti, però insomma, attenzione, perché in questo Ciccio secondo me estremizza un po', però si deve sempre portare grande rispetto per le squadre non belle che però sono in alta classifica, perché se ci sono un motivo c'è, e quindi il motivo riguarda chiaramente il campo. Secondo me in queste 10 partite non è che ci sia stata un'evoluzione di nessun tipo, cioè l'Inter non è né peggiorata né migliorata. Però è ora di migliorare, è ora di fare il salto, però a parte c'è Inter-Roma, sabato sera vediamo, nel senso può essere anche la partita della grande legittimazione dell'Azzurra, cioè, per ora l'Inter ha giocato uno scontro diretto contro il Milan e l'ha vinto. Lascia perdere adesso la condizione che c'è in questo momento in classifica per il Milan, però insomma era una partita di stracartello. Ne ha perso uno clamorosamente contro la Fiorentina e ne ha pareggiato uno che poteva vincere o che poteva perdere, perché alla fine è giusto che abbia pareggiato, secondo me, contro la Juve. Cioè, mi sembra una buona situazione. Ottimo, tanto che è prima in classifica. Al è momento, brutto a vedersi, al momento insomma, non ti devo, è brutto a vedersi. Io ieri, Bologna Inter, il primo tempo c'era veramente voglia di fare una pennica. E probabilmente senza quell'errore del Bologna clamoroso, difficilmente l'Inter l'avrebbe portata a casa. Però, insomma, la classifica, ripeto, non mente. E quindi... anche senza la parattissima di Handanovic su destro, che non segna ormai dalla preistoria. Però oggi Bologna cambia allenatore. Oggi Bologna cambierà Deglio Rossi, tanto che non dirigerà l'allenamento del pomeriggio, sarà sostituito dal suo vice e arriverà Donadoni. Allora, obbedendo alla suggestione di Ciccio Valenti sul foglio rosa, che è la Gazzetta, leggo: pro Rossi, Bradley Smith, Elias, Iannone, Petrucci, Hayden, Vignales e Miller. Neutrali, sei piloti: Dovizioso, i due Spargarò, Crashlow, Pedrosa, non so fino a che punto, e Redding. Pro Marquez, Lorenzo ovviamente, Barberà, Bradl, Bautista ed Hernandez. Quindi così la Gazzetta vede il Gran Premio di Valencia. Tanto parliamo con gli ascoltatori. Giampiero D'Asti, buongiorno. Buongiorno. Dica. Salve. Complimenti per la trasmissione. Lo so, farò un appunto sul calcio italiano. Sì. Lei è un gran trasmettitore, sicuramente conoscerà di calcio, ma Pardo penso un po' meno. Perché, trasmettitore. No, io lo ammiro ho perché. Ho le antenne molto, sulla testa, infatti. È molto bravo, però ci fa credere che l'Inter è primi classifica, che qui che là un leader è una squadra normale, è una squadra proprio da è lì perché non c'è neanche lei perché si trova lì. No. Perché altrimenti allora non mi permetterei mai di difendere Pardo, però è la squadra con la miglior difesa del campionato e non, no, è l'unica che non ha mai perso in trasferta. Dirle che non è spettacolare, però insomma, a 21 punti dopo 10 giornate, e quindi ha la migliore difesa del campionato. Segnarle è difficilissimo. Sono partito io dicendo che non mi piace, che mi stavo addormentando ieri durante il primo tempo, che senza l'errore del Bologna non avrebbe vinto, però insomma sono 10 partite, ma poi non sono perché proprio non la giocano, ma nulla. Su questo si può essere d'accordo. È chiaro che vedere il Napoli in questo momento e vedere l'Inter sembrano due sport diversi, però ripeto, non c'è la famosa frase sul fatto che poi per divertirsi si va al cinema. Questo può essere anche, questa cosa qui può essere anche invece un elemento di forza dell'Inter in prospettiva, perché, perché non può che migliorare, Piero. Non può che migliorare. Una squadra, per esempio, ieri sera l'Inter ha vinto una partita facendo riposare Jovetic con gli Ajax, che ha dato dei segnali incoraggianti. Quindi vuol dire che Jovetic arriverà fresco alla prossima sfida contro la Roma, tanto per fare un nome. Icardi ha ancora segnato abbastanza poco, quindi se si sveglia, al di là del fatto che gli arrivano pochi palloni, può migliorare. Insomma, io non la sottovaluterei sinceramente, perché hai ragione, a grandi margini. Mi pare che abbia grandi margini. Io rimango abbastanza convinto che sia un filo dietro al Napoli, alla Roma e secondo me anche alla Juve in prospettiva, però subito dopo secondo me c'è lei assieme alla Lazio, e quindi in caso di crollo, di difficoltà delle altre può inserirsi, ma questo è un campionato molto livellato, insomma, proprio perché è presto io non riesco ancora a dirti al 100% che Napoli e Roma sono più forti. No, ho la sensazione che siamo più forti, ma sì, ma siamo fino a ottobre, l'abbiamo lanciata ieri questa suggestione di Benvenuti al Sud, di una lotta a scudetto che non ne abbiamo mai visto, cioè quella tra Roma e Napoli per l'appunto. Sarebbe molto divertente, ma siamo a fine ottobre, ragazzi. Certo. Giorgio, provincia di Massa. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Volevo entrare nel merito di Marquez e Rossi. Sì. Secondo me la questione è stata inquadrata solo da uno solo dei vostri ospiti, che è, adesso mi sfugge, c'è stato lunedì pomeriggio. Sì, Roberto Ungaro, sì. Sì, era quello lì. In pratica, secondo me, Rossi ha sempre privilegiato il corpo a corpo in una gara. Lui è nato per questo. Sì. Ora ha trovato praticamente il suo sostituto. Quindi di che cosa stiamo parlando? Il discorso è quello lì. Ha trovato uno che gliele dà di santa ragione, corretto, perché poi ci andiamo corretto ad analizzare. Sì, corretto senza comitate, senza niente, secondo me. Agonisticamente, se stiamo parlando di Rossi, quante ne ha fatte passare? Ho capito, Giorgio, Viaggi. però qui c'è un punto centrale, e sta nel fatto che Rossi ha sempre usato la forza quando serviva, quando gli tornava utile, ma contro avversari diretti, non per far perdere il mondiale a qualcun altro. E questa è una differenza. No, certamente ha ragione. Questo è il punto però, centrale della questione, che la rende del tutto sui generis, una situazione che non abbiamo mai visto. Possiamo discutere di quello, ma se vogliamo discutere non lo discute nessuno. Nessuno discute sul fatto che molto spesso Valentino, anzi, ha fatto di questa sua cattiveria agonistica la sua forza. però ripeto, ma è successo anche in Formula 1, abbiamo citato un sacco di episodi, ma sempre in duelli che portavano al titolo, quindi tra contendenti diretti per il titolo. Borsa, torniamo. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Torniamo con Pierluigi Pardo, ci sono altri due ascoltatori, Maurizio Lorenzo in linea. Pier, so che, come ho detto prima, racconterai questa sera Sassuolo-Juventus, partita estremamente interessante, qui chiediamo delle molto risposte, ma a me la gara che insomma intriga di più, che mi incuriosisce di più, è Roma-Udinese, non tanto, Udinese non brillantissimo in questo momento, ma sono curioso di vedere se davvero la Roma ha trovato continuità e se gira e come gira con Dzeko. Sì, questo discorso riguarda anche Napoli-Palermo, se vuoi, cioè sono le due partite sulla carta facili, ma solo sulla carta, di due squadre in grande salute che hanno vinto le ultime quattro e che sembrano le due duellanti, le due più brillanti che ci sono. Però per me, scusami, la partita al giorno è solo Juve. Sì, perché penso che la Juve sia... ha un bivio. Sì, è un bivio, ha perso dei punti nella prima parte della stagione, è evidente che sta recuperando, che stia recuperando. È altrettanto vero però che il Sassuolo è un avversario complesso, poi gioca fuori casa, quindi sa, voglio dire, un pareggio a Sassuolo, tanto per essere chiari, in assoluto non è un risultato disprezzabile, però la Juve non può permetterselo se vuole riaprire il certo tipo di discorso, quindi questo la rende la partita più interessante della serata. Poi c'è anche presente Atalanta-Lazio, che è un bel test, perché se la Lazio dovesse vincere pure a Bergamo, penso che smetteremmo di considerarla solo un outsider. Marcia al ritmo del Napoli. E poi c'è la sfida Rossi Marquez a Verona. Sfida Rossi Marquez a Verona. Sul web questa cosa. Si ritrovano Rossi e Marquez, ovviamente Pepito e Rafa Marquez, difensore messicano. Sì, con meno astio, ragazzi, per favore. Speriamo. Speriamo. Sì. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno, sono tifoso del Milan, di Milano, niente. Se l'Inter non è bellissima, il Milan è una discreta racchia, tanto non piace neanche al presidente. Il Milan è una discreta? Racchia, cozza. Ah, sì, discreta? Ma no, discreto non esiste, è una racchia. È stata una racchia. Una chiavica. Niente, allora io rimango sempre dalla mia idea, voi sicuramente adesso dopo... la mia telefonata mi contraddice, però fa niente. No. Non parta battuto. I Galliani sono due incompetenti totali, calcisticamente parlando. Politicamente, che non mi interessa niente la politica, li porto alle stelle, va bene. Quello che vogliono loro. Allora, ma si può dire, una settimana fa torniamo grandi di là, anche l'Inter. Poi ci mette anche l'Inter, che l'Inter non ha niente a che fare con Milan. E poi adesso come siamo ridotti, male. Ma sei avvallato tutto te, la campagna acquisti e palle varie. E niente, comunque, allora, il discorso che Paratici e Galliani vanno a vedere la stessa partita. A Paratici piace il giovane forte sconosciuto e a Galliani non ci arriva. Basta, la differenza è questa qua. Ma io sembra che... Donnarumma, Romagnoli, anche Eli non mi dispiace, basta. Sì, tutti i ragazzi, anche De Sciglio, che pure è giovane, come centrali, okay, come si deve. Romagnoli lo terrei lì sulla sinistra perché deve ancora imparare. Un bel terzino, quindi dentro Brandina, tutti, sì, sconosciuti, però forti. Tutti sconosciuti, però forti. Bravo. Maurizio, sconosciuti ma forti. Sconosciuti ma forti, oggi come oggi, non è facilissimo. Sconosciuti ma forti. Forti è complicato. No, io devo dire questo: che il Milan, perché il Milan negli ultimi anni abbia sbagliato quasi tutto, questo è evidente. Quindi, insomma, non. Su questo penso che siamo tutti perfettamente d'accordo, e quando si sbaglia, sbagliano i presidenti, sbagliano i dirigenti. Io credo che da questo punto di vista nessuno possa occultare delle responsabilità che sono evidenti. Poi c'è una storia che parla di grande Milan costruito da queste stesse persone. Detto questo, quest'estate insomma il Milan ha fatto una cosa diversa rispetto a prima. Ha preso dei giocatori giovani, li ha pagati molto, forse troppo, però li ha presi. Ha speso molti soldi, voglio dire, oggi tu se critichi il mercato del Milan puoi farlo, ovviamente, però dovresti riconoscere che qualche settimana fa non lo stesso, oppure, o oppure di Dunico, nel senso che ma chiaro, Pierluigi, alla fine dell'estate i milanisti erano fiduciosi, non pessimisti, dopo che sono stati spesi soldi, dopo che sono stati presi giocatori giovani, giocatori reduci da grandi stagioni e non saldi del mercato come era successo negli ultimi anni. Quindi alla fine del mercato, all'inizio della stagione, il milanista medio era fiducioso. Poi, sì, poi alcune cose stanno dimostrando, diverse. Abbastanza incomprensibili, questo Bacca, Balotelli, Luis Adriano, non so, mi sembra facessero un po' scopa tutti e tre, per carità, ben vengano, però allora a quel punto forse era meglio prendere un difensore in più. Sicuramente a centrocampo c'è ancora qualche equivoco. Carestia. Detto questo, insomma, io non mi sento di dire che il Milan abbia sbagliato tutto, o meglio, che gli acquisti fatti dal Milan fossero talmente assurdi e talmente fuori dal mondo da. Sì. Cioè, mi è piaciuto di meno nel passato il Milan. Ecco, Sicuramente aveva meno prospettive l'anno scorso di quanto non ne abbia quest'anno. Senti, andiamo da Lorenzo, provincia di Treviso, che poi abbiamo un ospite in linea. Lorenzo, buongiorno. Ciao gente, ciao Pardo. Ciao, dimmi. Ciao, io volevo intervenire su Valentino Rossi. Sì. E soprattutto su quello che ho sentito ieri dire da Pardo, che Valentino, se tutto va male, può vendicarsi sul terzo incomodo, che non so ancora che colpa ne abbia di quello che è successo domenica. Ma il nostro problema di italiani è che noi siamo stati abituati a santificare Valentino per qualunque porcata ha fatto in tutti questi anni. Noi abbiamo scusato Valentino per spallate, per tagli di chicane, giudicandolo un genio, un creativo della motocicletta. Questo andava bastonato a bandiere nere. Non sono d'accordo. Lui a Sepang doveva prendersi la bandiera nera, non doveva neanche presentarsi a Valencia. E poi sento ieri prendersi la bandiera nera voleva dire essere escluso da quella corsa, rinunciare a quella corsa. Anche 16 punti in meno, però non certo rinunciare a quella corsa. Comunque articolato. Sì. Ma anche ieri Pernat sembra quasi che Valentino sia stato provocato senza motivo da Marquez. Questo è andato a dire che in conferenza stampa era stato rallentato da Marquez, sì, a Phillip Island. Sì. Ma noi non ci ricordiamo che tipo Valentino ha steso Marquez in Argentina, ha vinto una gara in Olanda buttandolo praticamente fuori e tagliando una curva. Sì. E lì è stato scusato per il suo genio e non ci si chiede come mai dopo le persone reagiscono nella maniera in cui secondo me è legittimissimo. Non la vedo in questa maniera, la vedo in maniera un po' diversa. Cioè è certamente un grande combattente, è certamente un duro, come è stato un duro Schumacher, come è stato un duro Senna, come sono stati duri tutti i piloti vincenti. Qualche volta è stato scorretto, ha provocato il corpo a corpo contro avversari diretti per il titolo. Claudio Costa, che è il papà della clinica mobile, papà putativo di tutti i piloti del moto mondiale, lo saluto. Buongiorno, ciao dottore. Buongiorno. Cosa ne pensi di quanto diceva il nostro ascoltatore? Allora, intanto penso che c'è un clima abbastanza caldo. È un clima di polemiche, di dibattiti, di crociate, di posizioni, di caccia alle streghe. Per cui se io rispondo cosa ne penso, incorrerei secondo me in un errore in questo senso, che uno dirà il dottor Costa ha detto così, concordo con lui, il dottor Costa ha detto così e dissento da quello che ha detto. Io vorrei fare una piccola analisi da cui tutti possono trarre degli spunti per delle loro riflessioni, in maniera che alla fine spero, usando una vostra radio così interessante, di dare a ognuno la possibilità di avere un suo originale pensiero su questa vicenda. Valentino, devo dire, quest'anno ha fatto una cosa meravigliosa, ha scritto una poesia di se stesso, ha creato un pilota nuovamente vincente, era stato dato finito con sacrifici, impegni, cambio di guida, trattenendo con una fantasia incredibile una giovinezza che sembrava perduta. Si è presentato alla vigilia della gara della Malesia con un'armonia e con una, diciamo così, con una storia meravigliosa, è pronto per vincere il decimo titolo, che praticamente avrebbe superato i 9 titoli che aveva vinto precedentemente. Poi cosa capita? Capita una cosa dove Valentino sente probabilmente un po' vacillare questa armonia, questa forza, questa fede su questa grande impresa, poesia ho chiamato, che aveva recitato durante l'anno, e vede un pericolo in Marquez e quindi accusa, diciamo fra virgolette, Marquez di essere, di averlo rallentato nella gara della Malesia e quindi di avergli minacciato quello che era la sua scalata al titolo. Sì. Qui dico sinceramente, non è importante che sia vero o non vero questo, è importante che Valentino lo creda, quindi vuol dire che nella sua mente, psicologicamente, sente che Marquez potrebbe essere qualcuno che minaccia quella che è la sua cosa. Sì. Nello stesso tempo Marquez di questa cosa se ne risente, sia che sia vera o non vera, perché quando uno dice una cosa vera, sicuramente in pubblico anche chi può essere, può essere, tra virgolette, sì. responsabile, se ne risente. Se poi non è vera, figuriamoci. Per cui dopo questa vicenda credo che si possa capire che cosa succede in pista. In pista ci sono due psicologie. Valentino non è più quello che durante l'anno era stato perfettamente concentrato per quello che riguarda la scalata al suo titolo. E Marquez ha sangue agli occhi. E praticamente vedi in Marquez l'ostacolo che si frappone fra lui e il suo titolo, perché in Malesia Valentino, lo sappiamo tutti, è un circuito che gli piace, quindi poteva, battendo Dottore, Lorenzo, ti chiedo una cortesia, posso interromperti un istante che devo mandare traffico, ma torniamo subito. Hola a todos, ya estamos en casa combatiendo el jet lag con una ruta en bicicleta y nada, os quería agradecer sobre todo el apoyo que me estáis dando en este momento, que lo agradezco muchísimo y os quiero mandar un abrazo. Adiós. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento. Tutti convocati. Pierluigi Pardo, dottor Costa, che vuol bene ai piloti come a figli suoi, ci sta tracciando un profilo psicologico. I grandi atleti siamo rimasti in pista in Malesia con Valentino, che psicologicamente vede un ostacolo fra il suo sogno, quello di conquistare il suo titolo, e questo ostacolo è Marc Marquez, che da un certo punto di vista, secondo me, dopo quelle che sono state le accuse, fra virgolette, della vigilia, credo che nella notte abbia levato dalla sua camera il poster di Valentino, che ha sempre adorato, e tutti i modellini che aveva raccolto durante tutta la sua vita e li abbia riposti velocemente e precipitosamente in uno scatolone, e poi dopo è andato in pista, e quando se l'è trovato vicino, dove lui con il contatto fisico si accende, si scatena, come abbiamo visto tante volte, come Alemán quando è arrivato in una gara dove non era pervenuto, che navigava in una quarta posizione, è arrivato a Iannone, è venuto a finimondo e ha scatenato quello che è una battaglia incredibile, insolita, inconsueta, ma solita per il suo modo di pensare, contro quello che è il suo mito, per cercare di metterlo alle corde, per cercare di fargli vedere impedire che sostituirà quel mito. Il nuovo cosa re. Succede psicologicamente in qualcuno? Parlo a tutti voi che mi ascoltate, che avete nella vostra vita un ostacolo che vi sbarra la strada per raggiungere un vostro sogno. Beh, si può saltarlo, si può evitarlo, si può invece in quel caso dottore ha fatto, in quel caso Marquez ha fatto a cazzotti con Valentino, proprio per le ragioni che ci spiegavi tu. Grazie dottore, ci sentiamo presto. Grazie. L'ha portato fuori pista, ma senza intenzione di farlo cadere. Quando la moto è caduta, ha spostato la moto che gli stava franando addosso. Certo. Ecco, questa è la situazione. Grazie dottore, alla prossima. Devo salutarla perché siamo quasi in chiusura dell'ora e devo lasciar partire Pierluigi Pardo per Reggio Emilia. Vado. Vai, stai andando? Senti, ma dimmi una cosa sul Napoli. Questa sera Sarri partita, come dicevamo prima, in casa con il Palermo, anche se l'anno scorso è stata una partitaccia per il Napoli, quella con il Palermo, ma era un'altra storia. Era un altro Napoli, sì. Un'altra storia, un altro Napoli. Toglie, dà un turno di riposo a Koulibaly e fa giocare Kirikesh. Pensi che sia un pericolo? No. No, toccare quella difesa così perfetta. Ma insomma adesso non bisogna diventare integralisti, dici? Ma no, ci sono gli integralisti del turnover fatto col bisturino, con il robot, e ci sono, non bisogna fare l'errore inverso. È chiaro che anche perché Kiri, che sta giocando, per esempio, ha giocato in Polonia, stato in Danimarca una settimana fa e non è andato male. Insomma, la grande squadra non può essere una squadra fatta di 13 giocatori. La però vedi, stranamente in attacco non tocca niente, dove pure ha grandissime risorse, c'è Gabbiadini in grandi condizioni, come ha dimostrato in Coppa. Siamo sicuri di questo, eh? Abbastanza. No, nel senso che Gabbiadini per me oggi potrebbe tranquillamente partire titolare, anche se ho letto i giornali che lo danno in panchina. Beh, io vabbè, non faccio l'allenatore, per fortuna, del Napoli nello specifico e di qualsiasi squadra eventuale. Penso che Gabbiadini abbia dato grandissime risposte, per esempio Danimarca, quindi una possibilità la darei, anche perché forse, oppure se non fai turnover oggi lo fai comunque domenica, quindi magari è domenica la partita in cui ci sarà spazio. Io credo che la gestione degli equilibri di gruppo sia fondamentale, che è diverso secondo me dalla mania di turnover che abbiamo, certo, visto in giro, che secondo me in certi casi è esagerata, che si comincia a settembre, ma la gestione delle energie, perché è molto importante, perché la stagione è lunga e lo spogliatoio è un luogo complesso dove tu devi tenere tutti sulla corda. Beh, chiaro, non puoi permetterti dei giocatori che poi magari per un infortunio, per una squalifica o per una situazione, quando ti servono non ci sono più. Ci servono non ci sono più. Pier, grazie, buon viaggio. Ciao, domani. Grazie per Luigi Pardo, ci fermiamo qui per il giornale radio. Poi dovrebbe arrivare anche una certa Zanzara, che ieri ha pizzicato in un albergo milanese. Giraudo e Tavecchio l'un l'altro a colloquio. Arriverà Marco Bellinazio, che ci racconta le cose interessanti su Roma, Sampdoria, eccetera. Aspettiamo anche e soprattutto voi. 800 24 00 24, numero verde. E saluto anche Gianluigi Pardo. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Convocati. Su quella causa da 444 milioni depositata al TAR della Juventus contro la Federcalcio, puntiamo a un bel pareggione, dice il presidente federale Carlo Tavecchio. Col cavolo, noi andiamo avanti, risponde Antonio Giraudo, che a quanto mi risulta fa l'immobiliarista a Londra, non è più un dirigente della Juventus. Questa conversazione l'ha sentita ieri, come avete letto oggi su tutti i giornali, Giuseppe Cruciani. Ciao ragazzi. Ciao. Ha detto col cavolo noi andiamo avanti? Sì, io ho sentito pochi frammenti di quella conversazione perché non dovevo farmi scoprire. Dunque ero un po' con il cappellino abbassato quasi sul... No, davvero. Sugli occhi. Sugli occhi. E ovviamente non mi potevo girare bene, però ho sentito, ero molto vicino, ho sentito questa frase ed altre frasi, parlavano chiaramente... del contenzioso tra Juventus e Federcalcio, che è doppio in realtà, perché anche la Federcalcio dopo una sentenza ha chiesto i danni alla Juventus. Non so se poi ha formalizzato questa cosa, ma insomma è uscita questa notizia che la Federcalcio avrebbe chiesto i danni alla Juve, e Tavecchio ha detto chiaramente perché non facciamo pari e patta, e l'altro ha risposto col cavolo noi andiamo avanti. Su quel noi si può speculare, chiaramente. Si può speculare un pochino. C'è anche Marco Bellinazzo da Sole 24 Ore, bella storia, eh? Qua, buon pomeriggio. Sì, complimenti a Giuseppe, insomma, per aver captato secondo la FGC il nulla. Ma sai, il problema è che ovviamente sulle conversazioni tutti possono discutere perché l'ho sentito solo io, e loro diranno naturalmente, come hanno già detto, che non hanno parlato di nulla, anzi erano solamente per lì per un caffè durato parecchio, diciamo, lungo, molto lungo, un lunghissimo caffè. E ovviamente su quello una parola vale una parola contro l'altra. In realtà l'incontro c'è stato, per questo l'ho anche documentato, perché a un certo punto non mi avrebbe creduto nessuno, no? Cioè, comunque avrebbero detto sì, vabbè, ma erano due sosie. Ho fotografato, lì c'è stato un incontro che allora io sono andato via che ancora erano lì perché avevo paura appunto che mi scoprissero, ma che a occhio e croce almeno un'ora è durato, insomma. Un'oretta per un caffè mi sembra. Beh, i soldi sul tavolo sono tanti e quindi si doveva discutere ampiamente. C'erano i soldi sul tavolo, aspetta, no, c'erano i soldi sul tavolo? No, ma c'erano e soldi tavolo virtuale. Ci sono tra l'altro anche altre azioni civili come Frascara che vuole 113 milioni, insomma, Calciopoli potrebbe rivelarsi un affare, insomma, per tantissimi. E poi alla fine tutti si metteranno d'accordo, non si arriverà. Quindi, però... quindi pari e patta, pareggione come dice Tavecchio. Allora, guarda, la cosa curiosa di quella roba lì è capire davvero il ruolo di Giraudo attualmente nella Juve, formale o informale. Certo non è un contratto perché la Juve non potrebbe assumere un radiato, quello mi pare normale. Che lui però abbia qualcosa a che fare con la Juventus, a mio parere non c'è dubbio, anche perché ha il figlio che credo che lavori nella Juventus, se non sbaglio. Questo non lo so, però fino a qualche tempo fa mi ricordo il figlio di Giraudo, questo non vuol dire nulla. No, infatti, però... L'altra cosa è il presidente della Federcalcio che oggi ho saputo che non è contrario alle regole e che in realtà ha un incontro lungo con un radiato dalla stessa Federcalcio. Certamente non è contrario alle regole, da quello che ho letto, incontrarsi. Beh, incontrarsi è facoltà, insomma, concessa a chiunque. No, incontrarsi. Ma c'era un altro aspetto, Giuseppe, che mi incuriosiva e che secondo me è cruciale proprio in quest'ottica, no? Capire cosa c'entra ancora Giraudo col calcio italiano quando valuta l'operato di Galliani e Bogarelli rispetto alle società italiane. Mi ha colpito anche questo aspetto. È notorio che la Juventus, anche qui è un indizio forse del fatto che ancora qualcosa ha a che fare con la Juventus, perché è notorio il fatto che la Juventus sia avversaria di questa specie di patto, comunque di questo legame molto forte che c'è tra Bogarelli di Infront e Galliani, quello che lui chiama sistema Galliani, per cui tutto potrebbe tornare da questo punto di vista. Poi il giudizio che ha dato molto forte, anche colorito, su cosa porti al calcio italiano questo accordo. Cosa che ha detto? Non mi ricordo più. Ha detto forse, l'accordo, forse il sistema Bogarelli-Galliani pisce in testa alla dignità del calcio italiano. Questa formula tecnica che è difficile poi da spiegare in termini giuridici. No, tra l'altro, la questione dei termini coloriti è stata confermata nel comunicato della Federcalcio di ieri, che ha smentito ovviamente il fatto che loro si siano incontrati per trattare sulla causa FIGC-Juve. E però in un passaggio c'era scritto sono stati utilizzati anche dei termini coloriti. Dunque in realtà il termine colorito, forse si riferivano a quello. Forse si riferiva a quello. Sì, mi sembra insomma che ce ne sia di carne al fuoco, insomma, per quantomeno insomma chiedere spiegazioni, insomma, a tutte le parti in causa che naturalmente possono trincerarsi verso. No, ma sai, Giraudo non deve rendere conto a nessuno, in realtà. L'unico che deve dare spiegazioni è l'immobiliarista forse... Londra, scusa. Sì, però non deve rendere conto a nessuno perché è un privato cittadino e potrebbe anche parlare a nome della Juventus semplicemente perché è amico della società, amico degli Elkan, eccetera. La Juventus dice formalmente che lui non ha nessun ruolo nella Juventus, quello che deve dare spiegazioni, secondo me, è Tavecchio, dici. Ma sì, perché è quello che incontra una persona che formalmente dovrebbe essere fuori dalle faccende del calcio italiano e magari accetta di discutere con lui di questioni inerenti, insomma, di affari del calcio. La mia impressione italiano è che lui abbia chiesto una sorta di mediazione. Questa è la mia impressione che ho avuto dopo, adesso parlando seriamente. Io credo che lui chieda a Giraudo di fare da mediatore in questa vicenda. Questa è la mia convinzione, cioè che possa servire, o comunque, siccome tra i due c'era un legame abbastanza forte ai tempi pre-Calciopoli. Assolutamente sì, con il padre e con Andrea. Esatto, allora io credo che Tavecchio lo abbia cercato, comunque siano cercati per trovare una possibile mediazione. Allora, che si debba chiudere questa vicenda e che il pari e patta alla fine sia forse la soluzione migliore. E anche la più probabile, no? Sì, ma abbiamo talmente tanto di quei problemi concreti da affrontare che evidentemente cercare questa soluzione è giusto. Che la si cerchi attraverso Giraudo e che la cerchi in questo modo il presidente della federazione, sinceramente mi lascia molto perplesso, anche perché insomma un po' di passi positivi la FIGC in questo periodo li stava facendo, come i centri federali, insomma si stava no, cercando di creare delle opportunità per il calcio italiano positive, quindi che si parlasse di fatti concreti, invece si ricade di nuovo in calciopoli. Ma questa storia non la cioè bisogna chiuderla formalmente, bisogna chiuderla dal punto di vista legale, giuridico, eccetera, e in questo può essere magari si chiuderà con un pari e patta. La visione di Giuseppe sia corretta, in forma dei campionati come vuole la Juve, a seconda squadra come vuole la Juve, a fronte di una Lega Pro che invece non li vuole, che ha portato l'elezione di Tavecchio. Anche questo bisogna dirlo, no? Sulla bilancia, insomma, del compromesso verranno messi anche questi aspetti. Senti, ma Ervi Peretta viene a dormire a casa tua, sai? Sì, ho visto che ha dei problemi con alcuni appartamenti che ha, con un appartamento, famoso appartamento ai Parioli. Ti ha chiesto ospitalità? Ma no, ma figuriamoci, no. No, non credo che ci sia un complotto contro di lui, come sostiene lo stesso Viveretto, una specie di complotto, ma insomma, no, credo che abbia disponibilità finanziaria tale da non doversi preoccupare di andare a casa di qualcuno. In compenso però la Sampdoria aveva un deficit di bilancio di 20... Ha perso il derby della Lanterna col Genoa nel 2014, meno 24,6 la Sampdoria, meno 26 il Genoa, sì. Due diciamo squadre... Quindi ha vinto? Sì, in quest'ottica sì. Ha vinto 2-0, dai. Mettiamolo sì, il fatturato è più basso, insomma, un pareggio, non sarà fatturato, no, ma a parte... Ora sono cellulari, i numeri e i bilanci che sono sul mio blog, insomma, gli appassionati possono farlo. Insomma, resta però una situazione molto grave a Genova, per entrambe le squadre. Lo dico da tempo, insomma, augurandomi che non seguano in particolare il Genoa le orme del Parma. Ma evidentemente c'è una situazione economico-finanziaria che è sfuggita di mano alla proprietà del Genoa e che è di fatto precaria dall'altro lato nella Sampdoria, e sulle quali insomma bisogna assolutamente vigilare vedere. Ma la cosa curiosa è chi ha pagato quel debito da Sampdoria? Allora, per il momento sono i Ferrero che stanno ancora, che nel corso del 2014, scusatemi, stai ampliando Garrone, il numero dei Ferrero, assolutamente. Cioè stai moltiplicando i Ferrero. No, i Garrone, la famiglia Garrone, che ha come dire, coperto nell'arco del 2014, la cessione avviene a giugno 2014, quindi coprono questo con finanziamento, versamenti vari per circa 65 milioni, e in più hanno dato garanzie per fideiussioni che dovrebbero essere estinte entro la fine dell'anno per altri 35. Quindi Garrone, che hanno fatto in soli 5 anni, dal 2009 al 2014, versamenti per oltre 100 milioni di euro, continuano di fatto a sostenere la Sampdoria, che la cosa carina è che è controllata da una holding, la famosa holding Max, che ha un capitale sociale di 1000 euro, ed è questo non vuol dire nulla, insomma, però per far capire il tipo di struttura che c'è, l'80% appartiene a Vanessa Ferrero, che è la figlia dei Ferrero, in quest'ottica insomma c'era il plurale, ed è una società che come dire, ha un fatturato di 60 milioni, ma ha di fatto costi della rosa tra cartelline e ingaggi di 60 milioni, più o meno la stessa situazione del Genova, che si mangia tutto il fatturato con le spese vive. Però questa è carina, no, Giuseppe, con i Garrone che divorziano dalla Sampdoria però le pagano gli alimenti, è così, no? Ma sì, più o meno è così, cioè fino adesso è stato così. Ma e l'amante del signor Ferrero che invece se la gode. Ma è tutto così, cioè nel senso che questo è stato bravo Ferrero credo che sia tutto regolare, secondo contratti, secondo cose già scritte tra i due, no? Scritture private. Però è curioso. Ma certo, fare diciamo il presidente per conto con i soldi degli altri è bellissimo, quello è straordinario. Cioè, solo Ferrero poteva riuscirci. Solo un mago e un produttore cinematografico, quello che è, cioè, poteva riuscire a fare un'operazione del genere. Fare il presidente di calcio, dove di solito uno mette i soldi propri, o comunque i soldi delle televisioni, eccetera, eccetera. In questo caso con i soldi delle televisioni, ma anche quelli dell'ex marito, degli altri, stupendo. Però alla sede della Sampdoria potrebbe andare a dormire lì Ferrero, che i Garrone hanno messo anche nel piatto. Insomma, giusto, c'è anche la sede. Anche la sede. Senti, Marco, dai a Cruciani una bella notizia sulla Roma, che non è messa perché benissimo. Perché sulla Roma, scusa? Perché non è messa benissimo. Ah, ma no, ma che bene. No, gli americani. No, parliamo anche qui di dati di bilancio abbastanza negativi, un altro meno 40 nel 2015. Meno 40, mica paglia. E l'anno prossimo devono fare almeno più 20 per il fair play finanziario, perché dovrebbero chiudere con un rosso totale tra 2015 e 2016 di 30 milioni, quindi partendo da meno 40 devono fare un attivo di 20 milioni, e nel bilancio scrivono apertamente, insomma, che se non andranno in Champions dovranno vendere giocatori. La cosa appunto preoccupante della Roma, su cui chiaramente la proprietà deve intervenire velocizzando per quanto possibile la questione stadio e aumentando i ricavi commerciali, è che si ha un fatturato di 180 milioni, ma di questi 180 praticamente quasi 90 vengono dalla Champions, dalle plusvalenze del calciomercato, quindi di strutturale c'è pochissimo, e il costo della rosa è di quasi 160 milioni tra ingaggi e ammortamenti, quindi c'è uno squilibrio strutturale che si sta aggravando nel caso della Roma e che meriterebbe diciamo ben altra attenzione. Se non aumenti i ricavi strutturali saremo sempre qui a parlare poi di indebitamento, come nel caso per esempio delle genoane, di nuovi proprietari pare dalla ricchissima liquidità, con fortune su cui si addensa qualche ombra, e che ora sarebbero disposti diciamo a rilevare le squadre. Sembra imminente, lo scrivono tutti i giornali, il passaggio di una parte delle quote del Genoa a Giovanni Calabrò. D'altro canto la Sampdoria potrebbe finire nelle mani di Volpi, il patrono della Spezia, del Recco. Credo che potrebbe finire davvero così. È una voce, proprio per questa situazione. Avete fatto venire mal di testa con tutti questi numeri, guarda. Cioè, sì. Tanto Roma e Napoli è una specie di focus economia anticipato, cioè un mal di testa terribile. Purtroppo ci si deve confrontare con questa roba qui, anche perché altrimenti i campioni sì assolutamente no. Però finiscono altrove. Ho una testa che mi sta scoppiando. Chi vive Roma Napoli per lo scudetto, tanto sì, ma io l'ho detto, la Roma vince il campionato con secondo me con più di 6, 7, 8 punti di vantaggio, ma proprio senza dubbio. Non capisco perché non credi nel Napoli. No, io credo nel Napoli, ma se Napoli arriva secondo non è che è una sconfitta se Napoli arriva secondo, ragazzi, qualcuno deve arrivare secondo, no? Cioè, per cui abituiamoci al fatto che non si può vincere, cioè se Napoli arriva secondo in campionato e magari arriva in finale in Europa League, non mi pare un disastro, cioè, magari vince la Coppa Italia. Napoli arriva secondo, insomma, e torna in Champions League. A guardarlo oggi. Guardare oggi la corsa com'è tra Roma e Napoli. Roma e Napoli, e Napoli non è sfavorito. No, dire, non dico che due. È sfavorito, però secondo me la Roma dopo due anni che è arrivata seconda ha una, da quel punto di vista, una struttura, è strutturata meglio. Ma non lo dico per scaramanzia, lo dico perché davvero ci credo. Credo che al terzo anno Garcia potrebbe vincere lo scudetto. Poi non è escluso, nella storia non lo esclude, anzi, di allenatori che al primo anno vincono lo scudetto, e potrebbe essere il caso di Sarri. Però in questo momento, secondo me, se devo fare una torta con le percentuali, dico. Dici più Roma? Dico 60 Roma, 30 Napoli e 10 Inter. Marco Perinazzo annuisce, ma solo per motivi di scaramanzia. No, devo dire che anch'io dall'inizio insomma del campionato. Io pure lo dico dall'inizio. Che se la Roma in grana ha una struttura tale tra il centrocampo e la difesa, se rientra Strootman, insomma, ma anche senza Strootman, se in grana i nuovi giocatori, Strootman. i nuovi giocatori insomma possono. Credo appartenga alla categoria degli ex quasi. Insomma, speriamo fino a di no, perché mi piace molto anche personalmente. Però speriamo di no. Ma però ecco, in generale credo che la Roma sia più pronta per vincerlo. Detto questo, il gioco che ha espresso il Napoli nelle ultime 5-6 giornate è assolutamente è il migliore. La squadra più equilibrata. Attenzione alla Juventus. Io ho avuto modo di parlare poco, non lo dico per scaramanzia, poco tempo fa con un maestro come Giovanni Trappattoni. Gli ho chiesto, insomma, lui non voleva sbilanciarsi, ma alla fine mi ha detto che secondo lo scudetto lo vince la Juventus. Io la vedo terza. Ma tutto è possibile, eh? La vedo terza. Però ecco, non mi sentirei di escluderla a priori. Insomma, sono queste le tre squadre più forti. Insomma, sulle milanesi ho qualche dubbio. Insomma, qualche dubbio. Beh, insomma, qualche dubbio. Io ho solo certezze. Sì, però tu. Sto giocando pessimamente. L'Inter è comunque oggi prima in classifica. Ha dormito da sola, prima in classifica. Giocando pessimamente, non può che migliorare. Sai, quando può andare meglio, no? Sì, secondo me sì. Cioè, può solo migliorare. Il Milan, secondo me, farà fatica ad andare in Europa League. Però l'Inter può tranquillamente combattere per il terzo posto. Roma e Napoli sono nettamente superiori all'Inter. Non credo che. Secondo me Roma-Napoli o primo o secondo. Beh, vediamo anche la Lazio, comunque. No, questo Lazio. Dico, come no? A fatica in Europa League. No, a fatica per niente. In Europa League di certo, e poi Europa League di certo. Non è che ci vanno 40 squadre in Europa League, no, anche lì. Cioè, Europa League di sicuro. Europa League deve arrivare entro settimo. C'è la Fiorentina, c'è il Milan che può combattere comunque a livello della Lazio quest'anno, avvicinarsi. E ci sono tante squadre che possono stare lì per l'Europa League, la stessa Sampdoria. Cioè, dipende anche molto da come si arriverà alla vigilia del calciomercato. Non c'è nulla di invernale. Bah, insomma, il Milan mi sembra in una posizione abbastanza scontata, che cambi Mihajlovic o non lo cambi, mi sembra una squadra sbagliata, punto e basta. È una squadra, ripeto, che può al massimo giocarsi con l'Europa League. Non credo che abbia nessuna possibilità di arrivare terza, nessuna, secondo me. Cioè, se arriva terza, vabbè, assistiamo a qualcosa di clamoroso. Cioè. Giovanni, provincia di Salerno, è lì da un sacco di tempo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Salve. Dica. Voglio parlare del caso Rossi Marquez. Secondo voi Pogba, se dovesse cambiare come centrocampista europeo all'uso dell'età, con chi lo cambierete? Veramente, è una domanda che mi lo sento tanto criticare. Il velocismo non ne capisco niente, anche se tipo Valentino Rossi, quindi non ho opinioni su Valentino e Marquez. Poi vorrei sentire la mia su Pogba. Cioè, con chi cambierei Pogba? Con chi cambieremmo Pogba? All'età del tiro, sì. Ma non so con chi potrei scambiare Pogba. Quello che mi lascia perplesso su Pogba è che sta giocando con una personalità, due accenti sulla A, non esattamente da fuori classe. Anche Pogba questo... non ha mai fatto un campionato intero ai massimi livelli, eh? Cioè non ha mai fatto tutta una stagione ai massimi livelli, ha sempre avuto alti e bassi. Sì, mi lascio anche perplesso i piccoli segnali, no? Quello scrivere con la penna domenica dietro più per me queste cose sono tutte cose simboliche che però hanno un'importanza quasi zero. Senti il peso della maglietta, e questo se è un giocatore di personalità. Sì, il peso della maglietta, quando giochi a pallone, che c'è il 10 dietro, l'8, il 24. Certamente quest'anno ha responsabilità maggiori. Ma insomma la responsabilità quando ce l'hai o si accompagnano a qualcos'altro, è il caso di Pogba, come qualità eccetera, oppure cioè non vedo queste cose, sono tutte cose che ci raccontiamo noi, probabilmente. Beh, ce la possiamo raccontare, però Juventus che non abbia grande personalità nei suoi interpreti adesso è evidente, no? Sì, ha trovato sì. Khedira, che gli ha dato solidità a Marchisio eccetera, però personalità non tantissima la Juventus. No, assolutamente no, però ti ripeto, Pogba non, anche nelle annate migliori non ha mai fatto tutto l'anno ai massimi livelli. Resta il fatto che Higuain è l'unico vero fuoriclasse che abbiamo in questo momento in Italia. Gli altri sono potenziali, dimmene un altro. Ma no, a Roma è piena di fuoriclasse. Nainggolan è un fuoriclasse? Sì, assolutamente sì. Secondo me sì. Assolutamente no, è un eccellente giocatore. No, è un fuoriclasse. È un fuoriclasse assoluto per l'età e per tutto. Dai, Nainggolan, la Roma ha due o tre giocatori che sono due o tre fuoriclasse. Florenzi è un fuoriclasse, secondo me. Sì, assolutamente. Florenzi, Nainggolan. Gervinho fuori classe, la Roma 2-3 ad altissimo Pjanic. Livello. Pjanic, assolutamente. Beh, dipende da dove poni l'asticella. Se la poni a livello di Higuain, gli altri sono. Vabbè, sono... ma Higuain è anche fa il centravanti, deve segnare. No, è il più forte giocatore del campionato italiano. Ti piace di più? Il più forte giocatore del campionato italiano. Non lo so, queste definizioni non mi piacciono mai. Il più forte, non so cosa sia il più forte. In questo momento è sicuramente il più determinante, sì, quello sicuramente. Ti piace questa? Assolutamente sì. Sei d'accordo? Sì, non mi credo che siamo più determinante, siamo così, insomma. Ci sei anche Insigne. Ragazzi, noi parliamo di calcio, ma tanto sapete benissimo che la gente in questo momento interessa tutt'altro. Ditemi la vostra, di Cruciani, di Veninazzo su Valentino Rossi. Ah, beh, sono giorni che ci esercitiamo su Valentino Rossi, che ti devo dire? 60 milioni di italiani si esercitano tutti i giorni su Valentino Rossi in questo momento. Non lo so, mi sembra che fra uno o due giorni si parlerà di altre cose, sì. Per fortuna di Valencia. Dopo domani. Niente polemiche su... Ma con la ricostruzione delle cose è chiaro che la gara di Marquez non era per vincere, ma era solo per rompere le balle a Valentino Rossi. Assolutamente. Questo giustifica la reazione di Valentino, la piccola grande reazione di Valentino che c'è stata poi su quello, sai, c'è tutta la discussione, calcetto, sì, non calcetto, la gamba che si alza, la reazione però. Alla spinta del casco, qualcuno è arrivato a dire che la gamba si muove automaticamente perché si appoggia il casco, questo come il martelletto del dottore, cosa incredibile. Sì. Secondo me l'errore di Valentino è stato quello di accettare la sfida, cioè, e quasi aspettarlo in quella curva lì, cioè, come ha spiegato benissimo l'altro giorno qualcuno a Tiki Taka, non mi ricordo chi. Per cui ci sono stati errori di Valentino in una condotta di gara assolutamente antisportiva, ma non sanzionabile di Marquez. Perché non hanno voluto sanzionare, cioè chiaramente Valentino. Ma non hanno voluto, come potevano sanzionare Marquez? Sulla base di cosa? Cioè, no, dovevano intervenire in maniera preventiva. C'è un comportamento antisportivo, perché se non stai lottando per nulla e continui a superare e a dare fastidio al giocatore. Ma quello non è sanzionabile. Cioè, tu puoi fare puoi impostare la gara come ti pare, anche contro qualcuno. Non è sanzionabile per regolamento, però l'errore della giuria è stato non intervenire in maniera preventiva. Ma come potevano intervenire? Sapevano benissimo come ma era. Ma come potevano intervenire? Non capisco. Io per esempio sarei Honda e dicevano: ragazzi, tenete buoni questi due perché fare, si prendono a cazzotti in pista. Questo si poteva fare preventivamente, ma soprattutto poi dopo. Come l'incontro Giraudo, visto che non hanno informale. Esattamente. Visto che non hanno danneggiato altri, avrei semplicemente penalizzato con zero punti Valentino Rossi e il suo amico Marquez per questa gara, cioè per la gara in cui hanno compiuto questi errori e queste irregolarità. Dopodiché sarebbe stato peggio Alberti, avrei lasciato, no? Sarebbe andato, avrei lasciato, sarebbe andato Valencia, però, dietro in classifica mondiale, ma però, ma dietro di quanto? Dietro di parecchio, dietro di parecchio, se rinunciava ai 16 punti, ma come no? Cioè, invece di prendere i 16 punti del terzo posto avrebbe avuto zero, insomma, ragazzi. Però ora è costretto, insomma, a fare un miracolo sportivo, che tutti ho capito, però comunque sia, guarda che dal punto di vista tecnico è peggio la situazione, è molto meglio così, paradossalmente. Allora, se gli toglievano i punti del Gran Premio di, che era Sepang, di Sepang, era un casino, sì, cioè, da circa hanno voluto tenere in piedi il mondiale con questa decisione e hanno fatto benissimo. Allora speriamo che piova e che tutto si riequilibri. Marco, sei buono, partendo ultimo, non so se è meglio. Ciao, che ragazzi, ciao Giuseppe Cruciani, ciao Marco Bellinazzo, ciao a tutti, sentiamo domani alle 2, arrivederci. Ehi, ragazzi, ciao.